Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. L'Europa ha scelto di darsi nuove regole contro la speculazione finanziaria. Dopo anni di stallo è arrivato questa mattina l'accordo, almeno dal punto di vista politico. Sono corsi 3 anni per avere le nuove regole sui mercati degli strumenti finanziari, con i limiti alle pratiche iperspeculative, le transazioni automatiche ad alta frequenza che creano nel giro di pochi secondi vere e proprie valanghe, e poi i freni alle esposizioni sui prodotti derivati su materie prime che infiammano i prezzi. Parlamento europeo e governi hanno raggiunto un accordo politico sui testi della cosiddetta MiFID 2, non era scontato, e adesso si tratta soltanto di affinare alcuni dettagli tecnici. Le negoziazioni organizzate dovranno trasferirsi a piattaforme multilaterali e ben regolate, con strette regole vincolanti di trasparenza. L'aumento pazzesco di velocità e di volumi negoziati, che pongono i mercati sotto immanente rischio sistemico, potrà essere fermato, e per la prima volta le autorità di supervisione potranno limitare la dimensione delle posizioni nette che possono essere detenute in derivati su materie prime. Per minimizzare il rischio sistemico, gli algoritmi per le operazioni ad alta velocità devono essere testati e autorizzati. La Commissione europea è molto soddisfatta, anche se il francese Michel Barnier, responsabile del mercato interno, dice che per il controllo delle operazioni su bond e derivati si poteva fare di più. Antonio Pollio Salimbeni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Sentivamo svolta annunciata questa dal premier greco Samaras a Strasburgo. Samaras questa mattina ha presentato al Parlamento europeo il semestre di presidenza greca con un discorso fortemente europeista. Nella crisi si è visto, ha detto, che l'Unione Europea ha funzionato e ha ringraziato per la solidarietà ad Atene. Intanto, notizia appena arrivata in redazione, come previsto dall'iniziativa Garanzia per i Giovani, l'Italia ha consegnato questa mattina a Bruxelles il suo piano per il lavoro giovanile. Otterrà dalla Commissione Europea fondi per un totale di 530 milioni di euro e altrettanti ne dovrà stanziare il governo. Lo scopo della garanzia sarà quello di assicurare che i giovani fino a 25 anni non restino per più di 4 mesi senza occupazione o senza formazione. Bruxelles rilancia intanto anche l'allarme terrorismo, chiama i 28 a rafforzare le proprie strategie di fronte alla minaccia crescente. La Commissione ha adottato una comunicazione dove identifica 10 aree in cui rafforzare le azioni degli Stati membri. Nessun paese è risparmiato, ha ammonito il commissario Cecilia Malmström. Sul fronte politico è ufficialmente partita intanto in Europa la corsa per la successione a José Manuel Barroso alla guida dell'Unione. Il commissario per il mercato unico, il francese Michel Barnier, si è candidato. I popolari europei a cui appartiene sceglieranno ai primi di marzo il nome di chi proporre come presidente dell'esecutivo europeo in caso di vittoria delle elezioni. Nello schieramento liberale, dove la scelta dovrebbe arrivare già ai primi di febbraio, ci sono in corsa invece Guy Verhofstadt e il commissario Olli Rehn. Rehn, che è considerato candidato dei paesi del nord, un simbolo di austerità, parla in un'intervista a Euronet Plus. L'allargamento dell'Unione Europea è stato un successo, ma allo stesso tempo la crisi dell'euro ha creato nuove divisioni, dice Olli Rehn. So di essere criticato sia nel nord che nel sud. Io continuo a costruire ponti. Rehn respinge anche un'altra accusa, quella di essere un candidato che dividerebbe lo schieramento liberale. Voglio unire la famiglia liberale e credo che chi potrà mai essere eletto come candidato leader avrà un posto nel ticket. Abbiamo bisogno di stare uniti e ottenere il sostegno in Europa, dice. Lasciamo allora l'ormai imminente campagna elettorale, perché intanto stanno arrivando a termine alcuni progetti e uno riguarda la ricerca. Una selezione che ha permesso a 312 scienziati di usufruire di borse di studio di consolidamento. A diffondere i nomi dei vincitori un comunicato del Consiglio Europeo della Ricerca, l'organismo finanziatore. Tra i progetti selezionati, analizzare gli effetti della materia oscura sulla teoria gravitazionale, verificare la responsabilità attiva e passiva, i rischi in situazioni in cui l'azione è delegata a sistemi intelligenti, esplorare il ruolo dei fattori genetici e ambientali nei circuiti cerebrali a livello embrionale. L'importo totale del finanziamento per questo ciclo è di 575 milioni di euro. In Italia sono 20 i ricercatori che riceveranno una borsa di studio di consolidamento. Tra loro c'è anche Diego Perugini, giovane ricercatore dell'Università di Perugia, che riceverà 1,9 milioni di euro per portare avanti la sua ricerca dedicata alla previsione delle eruzioni vulcaniche. Le borse concesse permetteranno agli scienziati di formare la propria squadra di ricerca. Secondo le stime, in queste squadre finanziate dal CER saranno coinvolti in totale 1.100 studenti di post dottorato e dottorato. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'appuntamento con l'Europa questa sera ad effetto notte. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.